Siamo con il centro sociale occupato Ricomincio dal Faro di Roma per parlare di una rassegna Roma e Cinema dal 5 al 9 aprile. Eccoci qui, ben ritrovato. Grazie Federico, grazie per lo spazio, grazie alla Donda Rossa. Roma Cinema dal 5 al 9 aprile, al Centro Sociale Ricomincio dal Faro a Via Vettullo 330. È una rassegna di cinema, non è un festival, quindi non ci sono premi, non c'è una giuria. Noi proponiamo diversi film, sia di registi diciamo, molto affermati, tipo Anime Nere, ad esempio, che ci sarà giovedì in apertura alle ore 21, giovedì 5 aprile alle ore 21, ci sarà Anime Nere con la presenza del regista Francesco Nuzzi e del produttore esecutivo Gianluca Arcovisto. Prima di questo film ci sarà il film La lunga strada gialla di Cristian Carbonino, che è un documentario e interverrà chiaramente anche Cristian. La sera alle ore 23, sempre nella stessa giornata, ci sarà Granma, che è un documentario di 35 minuti di Daniele Caglianone, che sarà presentato dal produttore Gianluca Arcovinto. Benissimo. Poi, se vuoi, ti posso elencare anche le altre giornate, però non so, mi devi dire tu se... Sì, tanto già è andata con la prima, vai, vai tranquillamente, facciamo una panoramica, una rapida panoramica. Alle ore 18:30 ci sarà il film Dentro di Andrés Arce Maldonado, un film di finzione del 2016, dove interverrà la produttrice Sibilla Stieri e Maria Spiotta, probabilmente anche il regista che non ci ha ancora dato la sua disponibilità, nel senso che non sa se quel giorno riuscirà a stare a Roma. Quindi non è sicuro che il regista ci sarà, però insomma c'è una buona possibilità che ci sarà anche il regista. Poi nello stesso giorno alle ore 20:30, quindi sempre il 6 aprile, La Chimera, che è un documentario di Elio Di Pace, Matteo Pedicini, Marco De Maio e Giovanni Toca, che sarà presentato dal produttore Gianluca Arcovinto. Sempre nello stesso giorno Scampia Felix, con regia di Francesco Di Martino, dove interverranno i ragazzi che l'hanno prodotto, i ragazzi del centro sociale Gridas e la banda Baleno. Questi due film diciamo, sono un po' gemelli perché raccontano la realtà di Scampia da diversi punti di vista. Sì. Poi, sabato 7 aprile, alle ore 17, dalle ore 17 inizia la serata, ci sarà Todos Son Amigos, con regia di Riccardo Soturide, dove interverrà l'associazione curatrice della versione italiana del documentario, che si chiama Cava Will. Poi alle ore 19, Strawberry Garden. Pronto? Sì, ti sento. Sì, alle ore 19, Strawberry Garden per la regia di Alessandro Arfuso, interverrà il regista Alessandro Arfuso. Alle ore 19:45 ci sarà un piccolo intervento dei ragazzi del Cinema America, che verranno a portare la loro solidarietà e a spiegarci un po' anche le varie cose che le sono successe in questi mesi. Poi alle ore 20:15 un main event, Sole, Cuore, Amore per la regia di Daniele Vicari, dove interverrà il regista Daniele Vicari e l'attore Francesco Acquaroli. Poi alle 22:30, sempre sabato 7 aprile, Octopus di Sergei Michalkovic Eisenstein, con accompagnamento musicale dal vivo di Orselli Apuzzola alla Dio. Quindi ci sarà questo film storico proiettato sul grande schermo con l'accompagnamento musicale in diretta. Bene. Domenica 8 aprile si inizia alle ore 17 con il film Fuori Campo del collettivo Melcanà, dove interverranno alcuni dello stesso collettivo. Alle ore 18:30 Made in Trullo, per la regia di Bruno Pace, interverrà il regista Bruno Pace, Lorenzo Urbani, che è uno dei montatori, e Giacomo Villa, che è sia montatore che uno di quelli che ha fatto le riprese. Alle ore 20, Living New York, regia di Simone Danno Luteri, insieme a Daniele Guaglia, Wrong Way, interviene Simone Danno, per chi non lo conosce, Danno del suo momento. Poi si finisce lunedì 9 aprile con una serata, diciamo, dedicata, dove ci fa il film Noise, regia di Carmine Cristini, che è un cortometraggio di 5 minuti a cura dell'associazione ADAD, che è il collettivo contro la ruspa. Poi Il ragazzo che lottava per i marciapiedi, con la regia di Giancarlo Castelli, Rossella e Tiziano Scrocca, con tavole disegnate da Zero Calcare. E per finire l'ultimo film, Figli come noi, regia di Rosso Fiorentino. E al termine di queste proiezioni, lunedì ci sarà l'intervento sia di Rosso Fiorentino che dell'associazione ADEM. Benissimo. Per quanto riguarda le informazioni. Allora, per quanto riguarda le informazioni, chiaramente cercare tutto su Parte Romattiva, che probabilmente a breve dovrebbe pubblicarci tutta, diciamo, tutta l'iniziativa, se non già l'ha fatto. E poi sui nostri canali social, quindi il centro sociale occupato di Comincio dal Faro, Facebook, o Cinema Faro, Info Proiezioni, sempre Facebook. Perfetto. Senti, e a questo punto ricordiamo brevemente le giornate, gli orari e basta, insomma. Rec, Roma Cinema, dal 5 al 9 aprile, centro sociale di Comincio dal Faro, via del Turno 330, chiaramente ingresso libero per tutte le serate, ci sarà possibilità di mangiare, di bere a prezzi popolari, quindi sarà attiva, diciamo, una food station, ecco, diciamo così. E quindi, vabbè, sì, le giornate, appunto, giovedì 5 aprile, si inizia alle 19 e finirà dopo le 23. Venerdì 6 aprile dalle 18.30, l'ultima proiezione alle 21.30, sabato 7 la prima proiezione alle ore 17, l'ultima con ottobre, quindi con il concerto alle 22.30, domenica 8 aprile si inizia alle 17, l'ultima proiezione di New York alle ore 20, lunedì 9 aprile prima proiezione alle 20, però calcolare che Noise dura 5 minuti e l'altro corto, Il ragazzo che lottava per i marciapiedi, dura 20 minuti e Figli come noi 77, quindi diciamo in totale la serata dovrebbe finire come proiezione intorno alle 10. Perfetto. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci si vede lì. E Certo, chiaramente, beh, lo dico così, dillo, dai. tutto un po' in mezzo, sarai uno dei presentatori di queste serate, Ok. serata però. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie, un abbraccio a te. Grazie sempre alla Giornata Rossa.